questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera e bentornati a RadioTube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che anche nella sua penultima puntata vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo. Anche questa settimana un pochino di perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, tutto quello che fa scatenare il mondo del web che siamo riusciti per 56 puntate finora a non chiamare mai il popolo della rete. 56, quindi finiamo a 57, non ci avevo pensato che numero sarebbe stata l'ultima puntata. Dunque, come si dice il nostro hashtag? Non si dice sole, ma si dice... No, quello è diventato peraltro. Sì. E non c'entra esattamente con da dove stiamo trasmettendo. No, però, non è... Però tu hai scritto, Monterosa ringrazia, da dove stiamo trasmettendo. Allora, chiariamo, perché magari gli ascoltatori non sanno che ieri è diventato trending topic in Twitter in Italia l'hashtag si dice sole. Sì. Non si riferiva al Sole 24 Ore, ma si riferiva a Matteo Renzi. Sì, lo ha scritto Matteo Renzi, riferendosi a Beppe Grillo, dicendogli: caro Beppe Grillo, non si dice colpo di Stato, si dice colpo di sole, si dice sole. Da lì è partito un dibattito. Però prendiamo questo marketing, diciamo, indiretto. Quindi ringraziamo, si dice sole. Potevano dire si dice RadioTube, però così diventavamo... Vabbè, comunque, allora, l'hashtag è RadioTube. Invece i due account, per queste due ultime puntate di quest'anno, et Marta Cagnola et di Bellasio. Però noi, siccome è estate, vogliamo parlare di amore e di sesso. Com'è sì, che dici quando tu fai la bolognese? Di amore. No, quando fai la bolognese. Quando parliamo di sesso. No, allora, tu hai detto 57 puntate. Potevamo farne direttamente 50. 57 sfumature di RadioTube abbiamo fatto. Ah, straordinario. Sembra tutto preparato. Invece? Invece... Non senti già quanto fremo? Non senti proprio tutto questo friccicore nell'aria? Un friccicore che ci porta fino al 12 febbraio 2015? No, ma guarda, è il trailer più ridicolo della storia, io penso. Effetto comico involontario. Assolutamente, sembrava alcune di quelle inchieste di qualche trasmissione della cronaca nera di quest'anno che ci sono state, adesso mi ricordo neanche più i titoli, altre le hanno chiuse, spostate, con tutta la voce impostata, poi il doppiaggio avrà rovinato tutto, sicuramente, come dite sempre voi linguiste. Lo sentiamo? No. Spieghiamo di cosa stiamo parlando. 50 perché... sfumature di grigio, l'abbiamo detto. No, il libro non l'abbiamo detto, siamo andati in media. Ha venduto due o tre copie, no? Mi pare. Sì, due o tre fantastiliardi di copie e diventa finalmente film. Finalmente l'hai detto, perché tu lo aspettavi. Sono qua che fremo, te l'ho detto. Io ho scoperto che grigio è che Grey, lui si chiama Mr. Grey. Cioè, grazie al trailer del film hai scoperto che 50 Shades of Grey era perché lui si chiama Grey di cognome. Non mi avevano spoilerato, mi hanno spoilerato Anna Karenina, non mi hanno spoilerato 50 sfumature di grigio, quindi non sapevo nulla di questo. Sono un'ignoranza senza lacune su questo fronte del libro. Lo ascoltiamo il trailer. Sì, perché davvero effetto comico involontario. Io però sono già curiosa. 50 Bondage. Sfumature di grigio. È una semplice intervista per il giornale. Ho solo un paio di domande. Il signor Grey può vederla ora? E lui com'è? Educato. Intenso. Intelligente. Un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro. E lei? Vorrei sapere di più su di lei. Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi. La guardo. Insomma, mi guardi, la guardo. Sì, parte Transformer, questo sì. Che no, bella poi, voce questa. No, signora. No, no, allora il doppiaggio è ben fatto, però i dialoghi sono un po' appunto... Poi, sai, quando dialoghi, lui com'è educato, sembra come quando incontro uno che non è granché, però per tirarmi su dico, vabbè, è educato. Sì, oppure quando entri in casa di un amico e dici carino qui. Ah, che vuol dire tipo sì, non è... Cioè, carino qui e non sai cosa dire, educato, non sai cosa dire. Ma continuiamo a parlare d'amore. Sì, questa, beh, qui non era proprio di amore, no, se non ho capito anche dal trailer si intuisce che l'amore è... Secondo me non è esattamente così il libro, secondo me lei voleva solo farsi sposare e quindi diciamo che tutte quelle robe... Questo lo sapevo che il dibattito era questo, per quelle robe lì intendi che era un amore un po' complesso, con dei giochi articolato, erotici, un po' acrobatico un po' così. Sì. Ma dai, no, abbiamo parlato di discorsi un po' vietati ai minori, invece adesso ritorniamo sui binari di consoni all'ora in cui andiamo in onda, cioè, che magari ci sono anche dei bambini. Cosa accade alle stesse due persone quando sono bambini? Il dialogo è... No, è vero. Dai, no, l'hai detto così. Tu via mail, sì. Sempre prima di andare sempre in onda. Prima di andare in onda. Allora, Daniele mi ha mandato questo video cercando di farmi intenerire. Sì. Invano. Sì, allora, se divi mercato. Certo. Il web... Con rispetto, saluto tutti gli abitanti. Il web impazzisce per il video, questo è quello che c'è scritto sotto il video. First day at school a sostegno dell'istruzione. Sono due bimbi, sono a Taiwan, sono in un asilo, ovviamente parlano in taiwanese, quindi ne ascoltiamo un pezzettino e spieghiamo cosa accade. Però sono sottotitolati, è in inglese. Sì, sono sottotitolati. Mamma. 你睡醒妈妈就来了 Allora, la bimba piange, non vuole rimanere all'asilo e lui le dice, lui Alston, dice a lei Anita, la mamma verrà quando ti sveglierai, sarà qui. Ma guarda che sbagliato, non lo dice tenero, lo dice molto macio, lo dice molto tranquillo. No, ma non ti preoccupare, adesso la mamma arriva. E lei piange, no, ma io, vuoi fare il sonnellino con me? Sì, dice lei, ma lui sempre molto tranquillo, per nulla imbarazzato e molto educato. Sì, ti proteggo dice, io. Dice, sì, ma voglio che mi abbracci. Lui già un marpione a 3 anni, dice, sì, ma io sono troppo piccolo. No. Sei piccola anche tu. No, dai. Ma mica alludono. Lui dice semplicemente, è giusto avere un po' di... così di malinconia, io ti proteggo, bellissimo. Cioè lui è già un marpione a 3 anni, perché ha già capito che lei, prima di andare a dormire, le hanno raccontato tutte le favole di Cenerentola e del Principe Azzurro, e lui subito, che intanto ha già adocchiato altre 3 o 4 bambine di 3 anni, lì dice, intanto questa qua... Allora, questa qua le dico, non ti preoccupare, ti proteggo io. Sì, no, ma la forma di sessismo che hai tirato fuori. Quando noi cerchiamo di essere protettivi... continuate a ragionare pensando che abbiamo solo quell'obiettivo lì. Guarda, a 3 anni. Appena lei si addormenta perché lui le ha detto non ti preoccupare, sto qui io che arriva la mamma, sicuramente lui già ne avrà adocchiata un'altra. Ma figura, mamma mia. È come la storia del gatto, è come la storia del gatto di Porcellana, l'altro video del quale la storia del gatto è evidente, questi due video sono stati più condivisi della settimana sulle nostre timeline. Sì. Sì. L'altro c'è un gatto che vede un gatto di Porcellana. Sì. E quello sì vuole 50 sfumature di micio, ecco, diciamo, perché... No, quello è vero, perché lui non capisce che è di Porcellana e cerca in ogni modo... Io pensavo che fosse arrabbiato invece, e spaventato. In quel caso lì invece tu dici di no. No, secondo me lui invece voleva fare la lotta col gatto. Vedi che siamo due mondi che non si capiranno mai, no, proprio. No. Allora, cioè, facciamo una cosa. Cerchiamo di trovare un punto di contatto durante il traffico. Facciamo così. Ah, sai chi diceva sempre traffico? L'ospite che abbiamo dopo, quando faceva anni, secoli, decenni fa, vabbè, poi ne parliamo. È uno spoiler, tra poco dopo traffico. Il traffico. Radio Tube. Rieccoci insieme dopo un blocco in cui abbiamo parlato molto d'amore, un po' di sesh e di 50 di sfumature di tutto quello che si può sfumare, per parlare di qualcosa di molto serio. Siamo un po' emozionati per diverse ragioni. Sì. Parliamo di politica in TV, sì. Politica, TV, social network, perché comunque, pur essendo, diciamo, un direttore che ama molto la carta stampata, sì. Persino il rumore gli piace della carta stampata, in realtà ha fatto un sacco di cose molto social, video, tutte queste cose qua. Dillo tu, perché appunto io sono un po'... Allora, facciamo un passo indietro. Ah, io ero al mare, sì. Ero in Sardegna, sì. Tu mi hai scritto dopo... Per lavoro, Per lavoro, certo, dopo una frazione di secondo, in Sardegna per lavoro dove non ti ho portato. Esatto. Dopo una frazione di secondo mi hai scritto cosa è successo in televisione. C'era in onda Enrico Mentana, sì. C'era ospite Marco Travaglio, sì. Ma soprattutto c'era ospite Giuliano Ferrara e le cose sono andate più o meno così. Allora, asino. Questo ridicolo mosciume. Ma se se l'è votata Berlusconi. Per dire, ma no, legge, ma io il caso Rubi. Ma io il caso Rubi. Dai, buono, se no ti spazzolo lo non sgabello. Nulla. Dove hai messo il tuo culetto non nella trasmissione nulla. Con Berlusconi? Sei l'uomo più sputtanato. Io la faccio sfumare da Gianni in regia perché va avanti per svariati avanti. Minuti. Va molto avanti e... Cosa vuoi chiedergli, visto che... Beh, intanto voglio dargli il benvenuto, sono molto emozionata. Buonasera, Giuliano Ferrara. Buonasera, come state? Beh, io adesso un po' agitata. Direttore, io spazzino dell'informazione guardona tra le bellurie di un talk show. Ti sì. Sei parecchio arrabbiato e a un certo punto hai anche detto ciao a tutti con una espressione un po' sì. diversa. Sì, sì. No, io sono nella vita spesso anche rozzo e molto volgare, non volgare, volgare, volgare poco, proprio veramente, insomma, una cosa indecente, ma scelgo l'indecenza quando è pregiudicata una così un assetto che mi sembra proprio, come dire, il minimo comune denominatore dell'umanità, non della professionalità, dell'umanità. Allora, mi sono trovato purtroppo per la seconda volta con Enrico, che insomma ci mette della buona volontà, ma anche un po' di malizia, evidentemente, di fronte a una cosa che, di cui non capisco la natura, per farla breve, non si può negare la realtà, no? Quando hanno condannato Berlusconi, io che ero innocentista e più che innocentista, scandalizzato perché gli era stato intentato quel tipo di processo, sono andato in piazza dicendo siamo tutti puttane, cioè facendo una cosa paradossale, assurda, eccetera, ma di frontale critica di quella sentenza. Coloro che l'hanno applaudita quella sentenza, che l'hanno perseguita, che l'hanno fiancheggiata sui giornali, in televisione, nei telegiornali, facendo vedere tonnellate di culi, di tette, di cose, eccetera, guardone, nel momento in cui quella sentenza viene buttata nel bidone della spazzatura da un'altra sentenza che la cancella, devono arrabbiarsi e devono dire qualcosa, devono andare in televisione, o si arrabbiano e fanno come avevo fatto io e criticano ferocemente la sentenza d'appello, oppure diciamo chiedono scusa. Ma insomma, una cosa pazzesca, nel momento in cui io glielo dico, mi abbassano l'audio per dire no, tu come mai sei così fuori di te, noi vedi come siamo tutti contenti, e allora lì scatta quella parolaccia che Marta Cagnola molto gentilmente non ha voluto ripetere. Perché di solito me la tengo per le occasioni in cui sono arrabbiata anch'io. Ma ci hanno costruito un movimento politico. Ma a certo. Da... Direttore, io ho visto Mentana in crisi come non tu lo vedevo da tanto. Veramente in sì, crisi. Io sostengo che... Vi siete sentiti dopo? Mi ha telefonato sì. gentilmente la mattina dopo dicendo io ti resto amico, eccetera, non deve essere come l'altra volta che mi ero arrabbiato veramente con te. Siamo finiti per tanto tempo senza sentirci, senza vederci, eccetera, eccetera. Beh, è stato carino, gentile da padrone di casa che io avevo appunto trattato molto male, ma ripeto, per una ragione che mi sembrava una ragione forte. Ma Giuliano, no, è stato carino. Giuliano, c'è qualcosa che non funziona più in queste trasmissioni talk show politici, così? Ci sono stati molti cambi di casacca, di rete, i format però più o meno restano sempre gli stessi. Siccome poi tu ne hai anche fatti tanti, c'è qualcosa nell'ultimo... Sì, sì, Daniele, guarda, secondo me tutto funziona, però ci vuole, ripeto, quella base, quel minimo comune denominatore. Io ho fatto delle cose veramente ignobili in televisione perché volevo rompere il focolare domestico, la televisione di Bruno Vespa, diciamo, quella di Rai 1, che era la televisione classica. Allora, prima con l'esperienza di Rai 3, poi nelle TV commerciali, poi ero molto giovane, molto stizzito, molto molto voglioso di guadagnare quattrini, di affermarmi, insomma le solite cose. Però se uno fa una trasmissione che si chiama Piazza Pulita e poi va in televisione, che è anche un bravo ragazzo, un bel ragazzo, Corrado Formiglia, una persona... Sì, l'abbiamo avuto anche. È capace. Appunto. Però uno dice Piazza Pulita e poi te dice io sono un garantista. E poi mi viene da ridere, viene da diventare pazzo di rabbia, capito? Perché quello non si può fare, tutto si può fare. Uno dice Erigo un patibolo, benissimo, è un mestiere come un altro, a me non piace, ma erigi il patibolo, voglio sentire il martello, i chiodi e il rumore del legno, non posso sentire invece l'ovattato, il soffice e il folle, diciamo, di un atteggiamento sopra le parti. Stai erigendo un patibolo. Vabbè, ma adesso dalla rete, dalla televisione, torniamo alla rete. Perché poi Giuliano c'è su Twitter. Certo, perché appunto con un amore per la carta stampata, ma anche la capacità di utilizzare il sito, e anche il sito del Foglio, nel quale Giuliano Ferrara fa degli editoriali anche video. Allora, sono di tipi diversi. Io ho scelto due frammenti, perché noi non abbiamo tempo per ascoltare di più. Proprio identici uno all'altro. Il primo che vi faccio ascoltare è quello del 23 luglio, un assaggio dei lati positivi della riforma del Senato. Abbiate pazienza, uno dice: ma chi se ne frega del Senato, della riforma del Senato, con tutti i problemi che ci sono? Beh, non è precisamente così. La riforma del Senato vuol dire una cosa molto semplice: per decidere un provvedimento favorevole alla crescita economica, per decidere una legge sul lavoro ai giovani, per decidere di tagliare le tasse, di tagliare certe spese improduttive, per decidere le cose anche importanti per noi, per la nostra vita quotidiana, ci si mette un certo segmento di tempo piuttosto lungo. Con un Senato che non è più il doppione della Camera, è il tempo di mezza. E questo è l'incipit dell'editoriale del 23 luglio 2014. Un altro esempio di come Giuliano Ferrara utilizza la rete e i video in rete invece è quello più famoso, quello del 14 maggio 2013. Eccone un assaggio. La rossa di procura, schiavo dei balletti tuoi. Parrucca rossa, occhiali maculati, nei panni. E poi lui è melomane. E poi, ottima impostazione, direttore. Complimenti. Grazie, grazie. Ero molto più intonato da ragazzo, naturalmente. Ma sento una certa tecnica, sì. Sì, insomma, una roba di un principiante terribile. Anche come attore, anche come dicitore, anche come truccatori, perché queste idee mi vengono lì al Foglio. E mi vengono mentre sto facendo altro, sto lavorando, vado giù e i miei ragazzi, che devo dire si divertono molto, gli dico: ma non, c'è lo zucchero, che ho bisogno di un montarozzo di cocaina, perché poi ne ho fatto anche un altro in cui fingevo di fare una pippata di cocaina per la felicità che Grillo aveva perso le elezioni. Oppure gli dico: ma non possiamo trovare una colonna sonora del Rigoletto, del... E allora loro capiscono che c'è qualcosa che non va, che sono diventato matto provvisoriamente, che per 20 minuti devono stare a vedere che succede. Ma però nascono in un secondo e finiscono in un secondo, come si vede bene, non c'è nessun arredamento scenografico, non c'è nessuna cura. L'unica cura è quella di colpire la fantasia, colpire l'immaginazione, cercare di far riflettere la gente. Secondo me questo fa parte del mestiere anche nella rete, diciamo, cioè fa parte dei bisogni della rete. Infatti spesso a me la rete diverte perché mi diverte e mi fa pensare, se no, insomma, per il resto, se fosse solo per gli insulti, per la carogneria, eccetera, no, uno la abbandonerebbe a se stesso. Qualche giorno fa ti ho sentito usare la parola retite. Tu sei affetto da retite? E tu sei affetto da retite? Sì. No, io non sono affetto da retite perché appunto, lo dicevi tu prima, ho un tale affetto per la carta stampata che vorrei abolire tutta la rete del mondo per poter produrre dei giornali e venderli nelle quantità giuste per ciascun giornale, naturalmente. Quelli che hanno la televisione ne venderanno tante di copie, quelli che vogliono fare analisi e opinione ne venderanno poche, però come il mio. Il punto è che la rete la uso molto, questo sì, ho scoperto pure che un male alla spalla destra che ciò potrebbe dipendere, mi ha detto adesso qui il da Twitter di Scanzano, sì, da Twitter, no, da Twitter, dal mouse. Ah, certo, sì, no, il mouse. Che il mouse è genera piccole malattie professionali. E dopo il gomito del tennista, la spalla del twittatore, così. La spalla del giornalista, sì. Sì, sì, sì, una sì, cosa no. spaventosa. Direttore, ti chiedo qual è il tuo rapporto invece proprio con Twitter. Il tuo account è il più bello di tutti, chiocciola Ferrara il Grasso. Hai... Twitter mi piace molto, Marta. Mi piace perché è semplice, perché poi io trovo che la storia dei 140 caratteri che tutti criticano è invece la sua la risorsa maggiore, proprio la genialità allo stato puro, perché è noto che è noto nella letteratura classica che insomma i 140 caratteri sono l'universo intero, uno può dire qualunque cosa in 140 caratteri, poi magari devi scrivere 15.000 versi come l'Iliade, ma la partenza è 140 caratteri, l'aurora dalle dita di Rosa eccetera sorgeva sull'orizzonte marino quando Zeus il Cronide fece la tal cosa. Questo è la poesia, questa è la prosa, questa è la comunicazione, cioè 140 battute devono essere il limite massimo, poi si possono replicare, ma sono quelle 140 battute che contano. Beh, straordinario. Io chiuderei qua, non solo perché tra poco abbiamo una pausa, ma perché più di cioè, comunque io di dico così... traffico in quel modo, lo voglio dire, dico traffico in sì, quel modo, come, perché come lo diceva lui. Mi piaceva come lo diceva e l'unica cosa che mi era rimasto di come prima di iniziare a fare la radio era ecco, questo. Allora, grazie. Buona grazie serata a Giuliano grazie. Ferrara ciao. Per essere grazie stato molto, con noi. Grazie molto, buon lavoro. Ciao Daniele, ciao, ciao Marco. Grazie direttore. YouTube. Rieccoci insieme dopo la piccola pausa per la seconda parte della nostra 56esima e penultima grandi puntata di RadioTube. Grandi questa puntata, ci stiamo regalando un finale di stagione. Bu, bu, bu. Guarda, veramente, io non ho... Allora, abbiamo parlato di lui tutto l'anno. Tutto l'anno. Perché siamo dei suoi sai fan. Sai che nel numero... Te lo ricordi? Nel numero nel zero. Nel numero perché zero, perché delle trasmissioni, sì. Soprattutto quando ci sono quelli un po' imbranati come me, si fanno i numeri zero, no? Sì. E soprattutto delle trasmissioni di cui non si ha idea di cosa sì. si farà. E noi... se poi magari andranno sì, in onda. Esatto. Allora, noi già nel primo avevamo almeno due audio barra video suoi. Io direi una cosa, prima di chiamarlo, perché è uno che va chiamato, sì, lui chiama molto, diciamo, lui chiama, ma stavolta lo chiamiamo noi, io sono andata a recuperare l'audio che avevamo messo zero. Proprio il numero zero, esattamente lui, ti voglio un anno bene, fa, Marta. Perché sai che il piccolo George adesso compie un anno? Sì, tutti ne parlano. Il principino George ha compiuto un anno, ma quando nacque... Pinuccio chiamò la regina. Pronto? Buckingham Palace? Pinuccio I am. E chi sei? Elisabeth? E will anon! Hans Labisnon! Ah, madonna, hai visto? La fine è nata! Oh, finalmente! Che proprio non si poteva più ad aspettare. Qualche cosa. Mamma mia, peggio di una colica. Senti, mo metti i soldi da fare per il regalo. Passami a Winners, passami. Ciao, many things, many things. Ma io me lo ascolterei tutto, many things, many things. È l'hashtag più bello del mondo. E lui è straordinario, ma noi ce l'abbiamo al telefono, questa volta l'abbiamo chiamato noi. Buonasera Pinuccio. Buonasera, buonasera. O buonasera Alessio. Grazie del programma, sei un detersivo. ma ormai ti chiamano Pinuccio o continuano a chiamarti Alessio nella vita? È una tragedia, mia nonna mi ha fatto gli auguri dell'onomastico a San Giuseppe. Quindi vivo proprio una tragedia, anche familiare ormai. Allora, però va bene, va bene. Tu come hai cominciato a fare questi video? Come è nato Pinuccio Chiama? Il fatto che tu prendi il telefono e chiami tutte queste celebrità che ti rispondono sistematicamente, questa forza, è la cosa, è certo. Devono rispondere. È nata circa 2 anni fa. Io in realtà facevo già, io non Pinuccio, quell'altro adesso, faceva già satira con delle cose un po' più locali, dedicate a Vendola. Voi sapete che è il nostro presidente di regione Vendola, no? Che offre, io, offre sponde, ovviamente. Quando si capisce, offre sponde. Dopo ci fu poi il periodo, vi ricordate quel mio concittadino Tarantini, no? Quella che forniva divertimento, diciamo, chiamiamolo così. E fu il periodo delle intercettazioni telefoniche, dissi, vabbè, mo provo pure questa cosa, vediamo come va. E faccio, diciamo, il Tarantini simpatico della situazione. E così 2 anni fa, al compleanno di Berlusconi, feci la prima telefonata. E lui ti ha risposto, ovviamente. Certo. Sì. E lui mi ha risposto, naturalmente, invitandomi alle cene eleganti. E tu ci sei andato. E io per forza. Io per forza, anzi, forse pure le burrate, le mozzarelle, le cose. E da lì la cosa poi, naturalmente, le è ampliata e si è anche diversificata, perché poi ogni canale da Twitter ha bisogno di un linguaggio, delle tempistiche diverse. Però, insomma, e quale ti piace di più? Quale ti piace di più di canale? Guarda, devo dire la verità, nell'ultimo periodo Facebook mi piace molto poco. È diventato molto generalista. Cioè, io non mi spiego mai, se un italiano su due non legge neanche un libro, come mai 9 su 10 su Facebook sono intellettuali? E quindi è diventata molto, tutti sanno tutto, tutti criticano tutto, ma anche nella critica c'è poca, cioè sono poco costruttivi, quindi è come se ha dato uno schermo agli ultimi della classe per poter dire quello che cazzo vogliono. Alessio barra Pinuccio, tutti sanno tutto e soprattutto tutti sanno l'inglese. Chi sa bene l'inglese? Ne abbiamo parlato, ecco. No? Beh, noi abbiamo parlato la scorsa puntata di Matteo Renzi del suo inglese, ma Pinuccio e il suo è la sua spalla, che noi amiamo particolarmente, hanno tradotto Matteo Renzi, hanno spiegato cosa ha detto Matteo Renzi in inglese. Ecco qua. The meeting in which a politician is not, are not the Sabino, ma tu stai capendo? No! Ma che lingua è? Sarà ceceno! Venice is a beautiful city, clear, but is a demonstration of a city with same word. Ah, questa l'ho capita, ha detto che Venezia salverà World. Ed Excel? Boh, penso una alla volta, poi farà tutto il pacchetto Office. C'è Daniele che non sta ridendo come un pazzo. No, ma io sono un fan assoluto. Beh, ma Sabino chi è? Tu ti sei mai chiesto, Piluccio, Sabino chi è? Cosa rappresenta? Sabino è come la poesia, non è di chi la scrive, di chi la legge. Ah. Beh, senti, è straordinario. Quindi Sabino è di chi lo ascolta. Giusto, sì. Mi pare una scelta narrativa molto, molto efficace. Ho un altro audio, però questo l'ho scelto solo per Daniele, perché ne abbiamo parlato anche lì nelle scorse puntate di RadioTube, l'improvviso addio di Antonio Conte dalla Juventus. E ovviamente basta questo per ridere. Ma hai già detto abbastanza per ridere, diciamo. Ma sai che Pinuccio ha chiamato Andrea Agnelli? Lo immaginavo. Ha risposto ovviamente anche lui. Eccolo qua. Vabbè, se n'è andato, bisogna guardare al futuro. Mo scegliete un allenatore, mi raccomando, internazionale, che ha vinto tutto, uno veramente che fa sfracelli. Avete scelto già? E chi? Allegri. Dai, uno scherzo. Allegri. L'uomo triste. Veramente. Ma state facendo come opera umanitaria, diciamo, nei suoi confronti, che sennò si buttava da qualche balcone, che non lo prendeva nessuno. Sì, mo a Pirlo, come glielo dobbiamo dire, però? Fate una cosa, mettetegli una parrucca da Allegri, camuffatelo un po' e dite che è francese, Allegri, così non se ne accorge, no, quel se ne va pure quello. Allegri è bellissimo. Sì. Non mi sono più ripreso, io non riesco a parlare più di questo argomento, perché è talmente enorme la cosa, come è enorme la tristezza degli juventini, che vabbè. Pinuccio o Alessio, ti chiamo in tutti e due i modi, come li scegli gli argomenti? Perché la cronaca ne offre tantissimi di spunti, però insomma non si può fare un video su tutto. No, diciamo che io mi sono dato una mia classifica in base alle notizie, cioè ci sono le notizie che meritano il post, le notizie che meritano la foto, le notizie che meritano il post scritto su una schermata e poi quelle grosse che meritano un video. È vero che alcune volte poi ci sono degli argomenti che magari a me toccano particolarmente, anche se non sono notizie molto grosse, faccio il video. Però diciamo, mi faccio prima uno studio di come il web sta reagendo alle notizie e mi faccio una mia personale classifica. Su Twitter come ti diverti? Come lo interpreti il modo di comunicare su Twitter? Su Twitter, oltre a rispondere ai politici, quei pochi che non mi hanno bloccato... perché ti bloccano! Hai capito, come le liste bloccate. Sì, mi bloccano, però vabbè, è anche giusto. Cioè, io poi su questo fatto che la rete debba essere assolutamente libera, non sono d'accordo. Cioè, quindi se ti do fastidio, tu mi blocchi, vabbè, ecco. Continuerò a parlare di te in solitudine. Peggio per te, quindi, oltre ad interagire con i politici, poi c'ho tutto, insomma, anche delle... la mia famiglia che interagisce, dai post di mia suocera a quelli della zia Acida che sono un po' più, diciamo, gossipari, e interagisco anche lì in base agli argomenti oppure anche in base alla mia vita privata, alla giornata. Per esempio adesso ho lanciato l'hashtag qualche settimana fa vicini di ombrellone, mettendo anche delle foto di quelli che non ti capisci se sono morti o stanno prendendo il sole, che li vedi in queste pose strane, sdraiati, sembra sparati al petto, e quindi cioè, parlo anche di quello che vedo intorno a me. Poi, essendo un assiduo frequentatore di bar e cantine, se si comincia a parlare di politica, vi assicuro che è un mondo meraviglioso. C'è qualche politico che ti ha risposto bene, che ti ha divertito, che ti ha messo in difficoltà? Non lo so, un ricordo legato a un tweet contro tweet con un politico? Vabbè, diciamo, con Gaspar mi sono proprio arrabbiato. Ah, beh, diciamo che lui è riuscito a litigare un po' con chiunque. Siamo arrivati proprio a chi sono io, tipo se fossimo stati vicini saremmo alzati le mani. Poi devo dire che Nichi Vendola invece mi ha accolto, insomma, il senso delle mie risposte rispondendomi con un tono divertente. E tu hai colto il suo? Dopo un paio di giorni mi sono fatto tradurre le frasi. La Moretti è un po' acida nelle sue risposte. Anche no, poverale, Ale Moretti. Alessandro Moretti, sì, che risponde, capisci? Cioè, non so, vuoi fare il politico? Vabbè, fallo, si dice che lo sai fare, ma non fare il comico, perché insomma non è mestiere tuo. E poi devo dire, Crosetto mi ha meravigliato. Mitico. Sì, è una persona davvero di spirito. Io ho la domanda molto difficile da giornalista. Sulla suocera. Occhio, sulla suocera, che è un personaggio straordinario. La domanda seria. Occhio, proprio senza peli sulla lingua. Alessio, ma ci si campa? Sì. Oh, viva Dio. Ecco, a domanda impertinente, risposta chiara. Sì, ci si campa se sul web ci arrivi con un percorso personale. Oh. Cioè, se tu fai il video in cui c'è il ragazzo obeso che balla e ti fa 2 milioni di visite, è un botto. Ma se quel ragazzo obeso americano che balla nudo sulla spiaggia, non ha un background per cui si è studiato quello che doveva fare, diventa un percorso fine a se stesso. Cioè, io faccio teatro da quando avevo 16 anni, il web per me è stata una valvola di sfogo rispetto ad un ambiente molto chiuso, che può essere quello della TV o quello del cinema, e per me è stata l'ultima possibilità, cioè dire, a me fanno ridere le cose che faccio, non me le fanno fare altrove, proviamo con il web. E il web da quel punto di vista non può essere bugiardo, se ci sono 100 persone che ti cliccano sono 100 persone. E ha funzionato alla grande, perché stiamo parlando di visualizzazione. E poi è ritornato tutto, cioè nel senso che io ho ripreso a fare teatro grazie a Pinuccio. Tra l'altro un piedino nella televisione l'hai messo? Sì, sì, ogni tanto un piedino lo metto in televisione, anche se la TV ha uno strano approccio, come la radio, ha uno strano approccio con, chiamiamoli, fenomeni web, nel senso che il fenomeno web... se è strutturato, e ce ne sono tanti che ormai da anni hanno i propri canali, hanno un proprio linguaggio, è quello, cioè nel momento in cui lo chiami su un'altra piattaforma mediatica ti devi rendere conto chi stai chiamando e non gli puoi far fare qualcosa di diverso da quello che ha fatto sino a quel momento. Certo. Questo approccio non ce l'ha, cioè per molti la TV, l'interazione col web è mettere il tweet, chiamare il blogger che non scopa da 3 anni a fargli dire qualcosa là. Quasi tutti, peraltro. Quasi tutti, perché i blogger non scopano. No, perché sennò non sarebbero lì a postare. Sì, tranne, insomma, qualche rapporto carnale con qualche stampante. In 3D magari. Che, sì, in 3D così viene meglio. Mi fermo. Gli youtuber, e ce ne sono tanti, anche di ragazzi molto giovani, hanno ormai un loro linguaggio, un loro percorso e quelle poche o molte persone che li seguono. La TV non capisce che le devi prendere per quello che hanno fatto. Esatto. Altrimenti loro perdono il loro percorso e la TV non ha nessun tipo di vantaggio. Però per fortuna, come dicevo prima, per chi è strutturato, ha fatto un percorso anche teatrale, ti crei la tua rete, chiamiamola underground, in cui attraverso la rete puoi fare gli spettacoli in teatro, nelle piazze. Io adesso ho fatto anche un complesso musicale. Sì? I primitivi di Manduria sono la risposta di Negramaro. Beh, fantastico. Abbiamo lanciato la prima settimana scorsa, che si chiama La Raccomandazione, dedicata a tutti quelli che non hanno una raccomandazione nella vita. E la settimana prossima usciamo con il nostro pezzo forte, che è Taranta voglia di lei, la storia... una coppia in cui la moglie decide di portare il marito alla notte della taranta. spostala in tempo, perché nell'ultima puntata di RadioTube vogliamo tra l'altro tu e Pinuccio avete la stessa montatura di occhiali, sì. Lo sa lui? Sì, no, volevo dirlo perché... io non vi conosco, vi mandate una foto così capisco. Adesso no, sì, adesso la montatura degli occhiali è identica comunque. Saluti a Sabino, intanto sì, salutiamo tanto Sabino. Many allora things. Quando Sabino magari non so, non sta bene un po', prende io ti il mando, mio posto, esatto, esatto, ti mando Daniele, perfetto. Ma io credi, accetto tutto, ma credi che io non ci guadagni, vado ma subito. Sono sicura, un piatto di pasta, due mozzarella, una cosa le trovi sempre. Adesso allora la se... prossima puntata noi aspettiamo la nuova hit dei Primitivi di Manduria, che così noi manderemo in onda nell'ultima puntata. Bello, di RadioTube, sigla finale dell'anno, che meraviglia. Ciao, grazie Pinuccio, Pinuccio, grazie per essere ragazzi, stato con noi, grazie, ciao, a voi. Buona ciao. Serata, io devo solo ricordare che il suo account è Pinuccio Tweet, la sua pagina di Facebook è facebook.com/Pinuccio Sono e tutto quanto tutto in Pinuccio.tv. RadioTube. Ma come passa il tempo quando ci si diverte? Siamo già all'ultimo blocco della penultima puntata, cioè la 56esima di RadioTube. Infatti io volevo dire che questo era il quintultimo, giusto? Il quintultimo blocco. Sì. Ed è il blocco dedicato ai palinsesti, li abbiamo fatti quasi tutti. Sì, abbiamo fatto un po' il giro, la RAI. No, hai sempre fatto tu il giro, soprattutto sì, questa volta la mia invidia era notevole, sì, visto sì, che in Sardegna. Sì, ho fatto un sacco di giri, siamo andati a vedere cosa ci riserverà la RAI il prossimo anno, cosa ci riserverà Mediaset. Beh, di La Sette abbiamo parlato tantissimo, perché insomma c'era tutto questo dibattito. Cosa adesso? Farà Sky? Sky? Cosa farà Sky? In realtà Sky, lo abbiamo detto, presenterà i palinsesti a settembre, appena dopo la Mostra del Cinema di Venezia. E allora quindi che ci sei per andata quanto... a fare in Sardegna, scusa? Che ci sei andata a fare a Sopra Posillipo, se non mi vuoi più esatto. bene? No, allora io sono andata intanto al Festival di Tavolara, che è un festival molto carino, perché, beh, che dire, il luogo è straordinario, è una delle tre proiezioni più belle dei festival. Io annovero tra le proiezioni più belle Teatro Taormina. Greco di Taormina, sì, Piazza Grande di Locarno, e ci sì, siamo quasi, tra pochi sì. giorni, e Tavolara, perché si prende la barchetta, si va sull'isola di Tavolara. Perché io non vengo mai a queste cose? Perché io ti lascio a casa. Sì, ho capito, ma... Vabbè. Vabbè. Allora, cosa è accaduto? Intanto... Sky Cinema ha portato una novità. Questo film girato per la televisione da di HBO, di cui mi stai facendo una testa da giorni, sì, di cui ti ho già dato il DVD, non hai ancora fatto i compiti, non l'hai ancora guardato. Vabbè, no, è perché ero lì, mi stava arrivando il ritorno del Tenente Colombo. Allora, prima qua, anche quando ti arriva il Tenente, prima di guardare la seconda stagione del Ritorno del Tenente Colombo, che stai aspettando sì, con ansia, con il pacco guardo di Postal questo. Market, devi guardare The Normal Heart. È sì. un film molto bello, io ne sono uscita davvero provata, ne sono uscita veramente con le lacrime agli occhi, un film girato benissimo. Racconta il dramma della comunità gay che nei primissimi anni Ottanta, il film parte nel 1981, dalla gioia, dalla spensieratezza di un'estate di enorme divertimento, la tragedia dell'AIDS, intanto la tragedia di una malattia sconosciuta, misteriosa, che li faceva morire uno a uno e non si capiva perché, soprattutto nessuno voleva dare loro ascolto. Abbiamo un pezzettino del trailer che è ancora in inglese, The Normal Heart. Hey honey, summer has officially begun. I've never seen or heard of anything like this. This seems to only be happening to gay men. We have to do something. La voce femminile che avete sentito è quella di Julia Roberts, avete sentito anche la voce di Mark Ruffalo, di Matt Bomer, insomma degli attori straordinari. Tra l'altro tra i produttori c'è Brad Pitt, quindi stiamo parlando di televisione di altissimi livelli, HBO, e l'ideatore e il regista è Ryan Murphy, cioè quello di Glee. Il film The Normal Heart è stato scritto da Larry Kramer, che aveva scritto uno spettacolo teatrale nell'85, quindi quasi 30 anni fa, con lo stesso nome, e l'ha portato in scena per molti anni. Quindi è un film per la TV. È un film per la TV, che dire? È proprio questo il tema. È un film realizzato da un canale televisivo con una qualità altissima, perché l'abbiamo visto a Tavolara, l'ha portato Sky Cinema, perché sarà su Sky Cinema ai primi di settembre, e quindi insomma ne ho approfittato per fare, per curiosare anche un po' nei palinsesti di Sky Cinema, qualche anticipazione, sì, con la direttrice che scherzosamente definiamo la direttrice della più grande multisala d'Italia. Io l'ho trovata deliziosa questa definizione. Non è male. Lei è una multisala con tanti schermi, moltissimi. Però lei è direttore di Sky Cinema, Margherita Amedei. Ecco cosa ci ha svelato intanto del palinsesto di Sky Cinema dal prossimo settembre. Io credo che il pubblico abbia bisogno sempre più di storie, di grandi storie, quindi di racconti ben scritti, di momenti toccanti che ti restino dentro. E anche in un film che dura un'ora e mezzo, due ore, si riescono a raggiungere questi obiettivi, che sempre più spesso sono coperti dalla grande serialità, perché lì si ha la possibilità di approfondire ovviamente le storie e i personaggi. Nelle scorse puntate della nostra trasmissione abbiamo un po' cominciato a esplorare i palinsesti della prossima stagione. Voi iniziate subito all'inizio di settembre con questo The Normal Heart molto forte, e tra settembre e dicembre, con queste esclusive di HBO, noi in Italia, noi appassionati di serie TV, abbiamo il culto di HBO, quindi voi insomma puntate molto su questi prodotti di qualità altissima. Sì, 5 titoli di produzione HBO, perché oltre a The Normal Heart, citavo prima anche Phil Spector, che è un'altra opera che sicuramente va vista. Anche qui abbiamo un cast incredibile: Al Pacino, Ellen Mirren, e la regia di David Mamet, quindi sicuramente un prodotto altissimo. Avremo Behind the Candelabra a dicembre, che è un altro prodotto che è già più noto al pubblico, perché è una produzione HBO che però è stata presentata prima al Festival di Cannes e poi portata in sala, quindi sicuramente avremo un lineup molto molto interessante su questo genere di prodotto. Anche per voi produzioni originali, ricordiamo che mentre la lunga serialità va su Sky Atlantic, voi vi concentrate sui film, quindi sono veri e propri prodotti cinematografici. La notizia è che tornano i Delitti del Barlume, torna il Barlume con Filippo Timi, e non solo, sì, ci concentriamo, come dicevi giustamente, sui film. Dopo l'esperimento riuscitissimo di Amore Oggi, che è una nostra produzione che abbiamo addirittura portata in sala dopo la presentazione sui canali cinema, stiamo in questo momento rilavorando su due nuovi episodi di Barlume. Il cast vedrà sempre Filippo Timi protagonista, e si è arricchito con la presenza di Benvenuti, che comunque sarà presente nei nuovi episodi. Ma siccome, insomma, avendo accanto a me, peraltro appunto in Sardegna, un posto bellissimo, il direttore di Sky Cinema Margherita Amedei, perché non chiederle un po' di cose in generale sul cinema in televisione, sulla fruizione del cinema in televisione? Daniele, non ho resistito, ecco qua. Qualche giorno fa Maria Rosa Mancuso scriveva un pezzo molto bello che lamentava ancora per un altro anno il cinema italiano chiude i battenti d'estate. Quest'anno la situazione è ancora più complessa, non ci sono quasi nuove uscite. Da settembre, fine settimana, saranno ingolfatissimi, ci saranno tantissime nuove uscite ogni fine settimana. Invece il cinema in televisione ha un suo pubblico, il che vuol dire che comunque la gente è pronta per il cinema anche d'estate, che la televisione l'ha già capito, il cinema non l'ha ancora capito. Secondo te qual è la situazione? Come dicevi tu, c'è un problema di fortissima stagionalizzazione sul quale credo che il mercato cinematografico debba lavorare, e noi siamo disponibili a essere partner in questo. C'è una grandissima voglia di cinema anche d'estate. L'estate di Sky Cinema ha sempre portato dei risultati sui canali ai livelli del Natale. Io credo che ci sia veramente la necessità di lavorare molto su questo, perché il rischio di vedere polverizzati quelli che sono gli incassi di prodotto di qualità, semplicemente perché tutto si concentra in poche settimane, è altissimo e danneggia l'intero mercato. Ci occupiamo principalmente di social TV, la Social TV però accompagna di solito i grandi eventi. Per il cinema, in televisione, per i vostri canali, non c'è tanto la social TV, il twittare sui grandi film, quanto invece delle novità tecnologiche. C'è l'abitudine a personalizzare la visione. È un approccio completamente diverso. È un approccio completamente diverso, le funzionalità del servizio on demand stanno lavorando molto molto bene. Questo sicuramente consente di organizzarsi il proprio palinsesto come quando si vuole. Abbiamo lanciato a dicembre una nuova funzionalità che è il restart, che sarebbe come riavvolgere il film dall'inizio. Questo sicuramente agevola moltissimo la visione dei contenuti. E quindi grandi eventi con live tweeting e il cinema, a parte insomma alcuni eventi che lo consentano, con il palinsesto personale, ognuno se li guarda sull'on demand e li fa ripartire quando vuole. Sono due aspetti diversi della tecnologia. Questo su Sky Cinema, mentre su Sky Atlantic, che è quella su cui va la lunga serialità, arriverà 1992, ne abbiamo già parlato a Radio 24 con Stefano Accorsi, e torna Gomorra. Sì, però 92 è quella di Tangentopoli, no? Sullo sfondo ci sarà Tangentopoli. Sullo sfondo, io lì sono un po', devo capire, sono sospettoso su quella serie. No, bisogna fidarsi un po'. Però torna Gomorra, noi da mesi dibattiamo, volevamo parlare da mesi del fatto di questo finale di Gomorra, no? Sì, sì. Potremmo lasciare l'interrogativo per tutta l'estate. Se nel finale di Gomorra, com'era l'interrogativo? Se, dunque... Don Savastano viene liberato. Sì. Don Pietro Savastano. Viene liberato e noi non abbiamo capito, non si sa se Ciro è consapevole, addirittura regista della cosa, oppure sarà la vittima di inizierà un'altra faida. Allora, noi potete scriverci ai nostri account @MartaCagnola @DiBellasio, usare l'hashtag RadioTube, no, non possiamo legare imparzialità. Quindi diteci come pensate il finale di Gomorra e l'inizio del successivo, e come diciamolo, Gomorra ha battuto il finale di House of Cards la stagione scorsa. A proposito di finali, finisce qui la nostra penultima puntata di RadioTube, perché noi ci ritroviamo anche sabato prossimo, facciamo un'incursione anche in agosto. Many things. Quindi salutiamo i nostri ospiti di oggi, salutiamo Gian che è stato in regia con noi per questa puntata molto avventurosa di RadioTube. Grande Gian. E noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 18 per l'ultimo appuntamento con RadioTube.